Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentornati, bentrovati, buon pomeriggio. Luca Tremolada ai microfoni, sono le 16.07, insomma non più tardi di venerdì. Luca Dello Jacopo, buongiorno. Buongiorno. Parlavamo di freemium, parlavamo di contenuti a pagamento su internet, di informazione, di giornali online. Oggi sul Financial Times, insomma, si parla di un possibile accordo di Rupert Murdoch con Microsoft. Perché? Perché Murdoch, l'idea, ecco, di Microsoft e probabilmente di Murdoch, perché come si legge poi l'accordo non è stato definitivamente confermato. È un condizionale, starebbero discutendo. L'idea è di sottrarre a Google i siti di Murdoch, di informazione, e di metterli su Bing, il motore di ricerca di Microsoft. E questo cambierebbe la geografia, in effetti, di internet, perché Google adesso ha accesso a quasi tutta internet. In questo modo una parte di internet non sarebbe più visibile per Google, e questo quindi cambia molto. E tra l'altro ci sarebbe anche, insomma, stanno discutendo, stanno cercando di capire anche una sorta di compenso economico, per cui insomma Microsoft si porta a casa i siti di notizie del gruppo News Corp, tra cui il Time, insomma, e in un certo qual modo li ripaga. Poi è tutto da capire se questa è semplicemente una mossa del buon Murdoch per alzare il prezzo con quelli di Google, insomma, creare un po' di concorrenza e dire, insomma, io voglio che qualcuno mi paghi i miei contenuti online, vediamo un po' chi vince. Sì, è una scommessa che sta facendo, sta sì, probabilmente tirando su un po' la posta. Ecco, tra l'altro chiediamo agli ascoltatori all'824-0024 che cosa ne pensano di Google, perché non l'abbiamo mai chiesto finora. Insomma, da più parti si era detto don't be evil, che non erano più i bravi ragazzi dell'inizio, insomma adesso hanno tutto, hanno la posta elettronica, sono una potenza. Una sorta di grande fratello. Esatto, una sorta di grande fratello, se hanno anche le mani sulle news, gli editori non ci stanno. Insomma, sentiamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, anche altre 349-238-6666, anche perché le tre storie che oggi andiamo a raccontare di tre uomini che si sono messi in luce in un certo senso nel mondo, che hanno ispirato delle idee, esatto, che hanno cambiato un modo di ricercare le cose su internet e nel mondo, diciamo, digitale, hanno come denominatore Google, in un certo senso. Adesso lo andremo a scoprire via via, però oggi raccontiamo che cosa? Appunto, oggi raccontiamo la storia di uomini che noi abbiamo definito eroi, in un certo senso, perché sono andati all'estero, hanno dimostrato quello che valgono, poi in alcuni casi sono tornati indietro, in alcuni casi sono rimasti lì, però insomma hanno dimostrato che hanno dato un bel messaggio dell'Italia. Hanno cambiato definitivamente un modo di fare le cose, e lo vediamo anche già dalla prima persona che con noi in trasmissione, che è Massimo Marchiori, professore di scienze informatiche all'Università di Padova. Buongiorno Marchiori. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo preparato, anzi ha preparato Luca Dello Jacopo, una breve scheda su di lei, che in un certo qual modo riassume la sua vita e le sue opere. Sentiamo. Massimo Marchiori ha 39 anni e insegna all'Università di Padova. Nel 2004 è stato premiato come uno dei 100 innovatori del mondo dall'MIT. Ha contribuito a ispirare le formule matematiche che permettono a Google di cercare in modo efficiente tra le pagine del web. Più volte i fondatori di Google, Sergey Brin e Larry Page, hanno riconosciuto il suo ruolo e gli hanno offerto un posto di lavoro retribuito con $600,000 di stipendio all'anno. Marchiori però ha rifiutato. Preferisce la libertà intellettuale della ricerca scientifica nell'università. Adesso sta lavorando alle tecnologie per il web semantico. L'obiettivo è di rendere i testi su internet comprensibili per le macchine. Allora, qualcuno non ci crederà, Marchiori, nel senso che quando si sentono $600,000 è una follia. Però ci racconti ai nostri ascoltatori qual è stato il suo percorso, perché peraltro lei è un grandissimo storyteller, si dice così? Penso di sì, non lo so. No, comunque voglio dire, quello che conta sono anche le storie, no? Per cui È bello avere storie da raccontare. Tra l'altro la sua è una storia che nasce all'interno dell'università italiana, poi il suo è un racconto che va fino al MIT e poi che torna indietro. Insomma, ci faccia capire un po' come quali sono le differenze, insomma, che cosa è successo nel suo cammino. Sì, è un po' una storia italiana nel pieno senso della parola, se vogliamo, perché diciamo gli anni erano attorno al 94-95 e lì il web era proprio appena nato, era una cosa nessuno avrebbe immaginato, tranne pochi entusiasti, diciamo così, che poi avrebbe avuto il boom che tutti ora conosciamo. E io lavoravo su altre cose perché ero matematico informatico, però il web mi ha subito fulminato, diciamo così, perché avevo capito, come anche molti altri all'epoca, il fatto che toccava le persone, che poteva toccare la società, che era una cosa veramente d'impatto su cui si poteva fare molto, perché era ed è tuttora abbastanza all'età della pietra, nel senso che ci sono tantissime cose da fare, per cui è veramente un campo eccitante. Per cui quello che ho fatto è mi sono messo a lavorare su internet e sul web, e ho visto lo stato di quelli che erano i motori di ricerca dell'epoca e mi sono sembrati paleolitici, come infatti erano abbastanza. E qual è il problema che ha risolto in particolare? Qual è il problema che ha risolto in particolare? Sì, il problema è che, anche se può sembrare impossibile ora, i motori di ricerca dell'epoca funzionavano veramente in maniera naive, diciamo così, perché il motore di ricerca cos'è? Una specie di voyeur della rete, deve capire come si comportano le persone guardandole dal buco della serratura, in un certo senso. E il buco della serratura con cui i motori di ricerca dell'epoca guardavano le pagine web, che sono le persone che abitano il mondo di internet, diciamo così, era talmente piccolo che vedevano solo i visi di queste persone, cioè le singole pagine web. A me è sembrato molto e troppo, diciamo, limitativo il fatto che se io voglio conoscere una persona, cioè una pagina web, veda solo la faccia, cioè la singola pagina, per cui ho pensato di allargare il buco della serratura, se vogliamo, di questo grande voyeur e di capire anche in che mondo vive una pagina web, per cui gli amici degli amici, diciamo così, come se uno dovesse investigare su una persona. Un'idea relativamente semplice, poi le formule che ci sono dietro sono anche abbastanza, una volta che uno ha capito l'idea, le formule quelle sono, non è che si può. Quindi lei è anche, adesso diciamolo, di Marchiori, lei è anche una delle cause della potere di Google che ha oggi. Cioè è colpa sua sostanzialmente, adesso diciamocelo. Che è successo? Poi io ho presentato l'idea, lavoravo a Padova all'epoca, sempre all'università, poi ho lasciato l'università per fare i vari giri per il mondo, diciamo così. Ho presentato quest'idea alla conferenza mondiale del web, che era ed è il forum principale dove si espongono le idee, e lì c'era Larry Page, uno dei due futuri fondatori di Google, che anche lui, avendo visto quest'idea, è rimasto folgorato, perché già con il piccolo prototipo che avevo all'università di Padova, che era una singola macchina condivisa con altri 40 utenti, riuscivo a migliorare i motori di ricerca dell'epoca di molto, per cui si vedeva, insomma, che quella era l'idea giusta, per cui per tutta la conferenza siamo rimasti lì a parlare su com'è che si poteva implementare i vari modi, e poi lui mi ha detto: guarda, cerco di fare un motore basandomi su questa cosa, e dopo hanno pubblicato l'articolo sul PageRank e di lì a poco hanno fondato Google. È stata una bella soddisfazione anche per me, E come si fa a resistere però a una offerta di $600,000 per andare a lavorare a Google? No, allora, sulle offerte io devo un po' sgonfiare le cifre, nel senso che Google direttamente non mi ha offerto queste cifre. Diciamo che cifre non così alte, però di quell'ordine mi sono state offerte da altri. Il punto vero, al di là dell'entità dei soldi, voglio dire, che non mi è mai interessato, per cui anche se le cifre fossero state queste ci avrei pensato due volte, è il tipo di ricerca che si va a fare in quegli ambienti, perché è vero. Perché è brutta? No, è che bisogna distinguere che cos'era Google un tempo e che cos'è Google ora. Cioè, ci spieghi. Nel nel senso che come tutte le grosse aziende che superano una certa soglia sono guidati anche principalmente dal fattore monetario. E quello che mi si chiedeva era, non era, diciamo, ricerca con libertà pura, diciamo così, ma era finalizzata al fare soldi, che è del tutto, lecito, per una ditta, però non era quello che pensavo di fare io per il bene di tutti e della società. Tra l'altro, cioè, lei che sta lavorando, lei continua a lavorare all'Università di Padova sul motore di ricerca. Che idea si è fatto del cammino di Google? Prima, a inizio trasmissione, abbiamo parlato della notizia che è apparsa sul Financial Times, di questa diatriba tra Microsoft Murdoch e Google. Personalmente, lei che cosa sta pensando? Cioè, assistiamo a un'azienda privata che, insomma, sta mettendo le mani un po' dappertutto e può rappresentare un pericolo, oppure siamo di fronte a un nuovo paradigma di azienda? Beh, allora, è vero che Google ha cambiato radicalmente il modo in cui si accede all'informazione. È un po' stata l'epoca d'oro per Google, nel senso che qualcuno ha anche soprannominato Google un po' come la sanguisuga dell'informazione su internet, nel senso che la gente fa la fatica di mettere l'informazione e poi loro fanno i soldi con questo modello che è stato ed è innovativo, nel senso, io faccio da mediatore, diciamo così, e guadagno sul mercato pubblicitario. È anche vero che come tutte le epoche d'oro, prima o poi finiscono. Quello che è successo con Murdoch, di cui avete parlato prima, è veramente interessante, secondo me in un certo senso epocale, perché non è stato solo lui, ma anche altri. Il grosso malumore che serpeggia è che alla fine ci sono c'è questo grosso intermediario che è Google, che fa i soldi a spese di altri che hanno difficoltà finanziarie. Per quello, eppure Marchiori, Marchiori, sto leggendo un po' gli sms che arrivano, cioè l'impressione anche degli ascoltatori è, leggo per esempio Walter, Google è il web 2.0 che funziona, Microsoft è il vecchio dinosauro. Cioè, alla fine la percezione che gli ascoltatori, ma chi usa internet hanno di Google è di una grande multinazionale che tutto sommato ti dà la posta elettronica gratis, ti dà i servizi, ti dà Google News, per cui, insomma, accedo a tutti i vari tipi di notizie, riesco a scaricare la posta elettronica sul cellulare, tutto questo gratuitamente. Cioè, qual è il trucco, qual è il tricky, direbbero gli americani? Cioè, anch'io sono un fan di Google, premetto che con tutto uno critica anche le persone a cui vuole bene, perché migliorino. Anch'io uso i servizi Google e sono fatti bene, benissimo, conosco un sacco di persone che sono valenti dentro a Google. Il punto è, alla fine, qualcuno deve pagare queste cose, cioè, forse noi non ci rendiamo conto, ma il gratis non esiste nella società attuale, per cui quello che succede è vero che noi abbiamo dei servizi gratis, e questo è stata l'innovazione, se vogliamo, clamorosa del modello di mercato di Google, però qualcuno paga sotto banco. Allora, chi paga questi servizi? Li paghiamo anche noi in termini pubblicitari, perché poi alla fine la catena pubblicitaria fa pagare alla gente le cose, solo che noi non ce ne accorgiamo. E pagano anche i fornitori di quel grosso bene del terzo millennio, che è l'informazione, per cui abbiamo visto la rivolta di Murdoch e di tutti quelli che producono informazione, che è un bene primario. Ora, come era l'acqua anni fa, adesso l'informazione è un altro dei beni primari, per cui lo paghiamo un po' noi diluito, perché poi spalmato su tutti i prodotti l'impatto pubblicitario è, insomma, relativamente nascosto, però lo pagano in prima persona i fornitori e i creatori dell'informazione, ed è da lì che è nata la prima, se vogliamo, rivolta dei peones sotto questo gioco informativo che Google tuttora detiene. Luca, ecco, Dello Jacopo. Quindi i benefici, in effetti, vanno tutti a Google, e per gli altri, quindi, i benefici economici sono un po' più ridotti in questo ecosistema, in questo modello di business. Beh, certo, questo è ovvio. È anche vero che, come detto, questa è un'età dell'oro per i motori di ricerca e soprattutto per Google. Quello che stanno chiedendo questi peones dell'informazione, diciamo così. Ma cioè perché peones? È brutto peones, non ci piace peones. I gestori che prima erano i re, se vogliamo, dell'informazione, adesso sono stati trattati al ruolo di peones. È di dividere un po' la torta in parti diverse, quello che succede in tutti i sistemi sociali quando c'è una situazione di ricchezza che è troppo sproporzionata tra le parti. Grazie Marchioi. Quindi se vogliamo capire, lo dico agli ascoltatori, insomma, se volete chiedere, avete dubbi, perplessità, domande su come funziona un motore di ricerca, anche sulla privacy, perché non l'abbiamo ancora affrontata, ma quando noi navighiamo, utilizziamo i software di Google, non è che Google ci viene a leggere le mail, come si è detto, anche perché costerebbe troppo, però noi in un certo senso siamo dei piccoli programmatori per Google, diamo gli informazioni, diciamo quello che funziona e quello che non funziona, insomma siamo noi stessi degli sviluppatori di software. Collaboriamo con Google alla costruzione del suo successo, insomma Google è così buono come dice di essere? Questa è la domanda e la faremo anche ad Alberto Conti, astrofisico dello Space Telescope Institute, ho detto bene? Buongiorno. Sì. Buongiorno. Anche per lei abbiamo una scheda che racconta la sua storia che è eccezionale. Per osservare l'universo non c'è bisogno di un telescopio, può bastare un cielo virtuale. Stelle e pianeti vengono riprodotti sul monitor del computer. 4 anni fa, un astronomo italiano, Alberto Conti, è stato folgorato da Google Earth, il mondo digitale che replica il planisfero terrestre. Conti, però, ha pensato di costruire galassie virtuali. È nato così Google Sky, un universo virtuale da esplorare con mouse e tastiera. Alberto Conti si è laureato in fisica a Trieste e ha collaborato con la SIS, la Scuola Internazionale di Studi Avanzati. Poi, negli Stati Uniti, ha iniziato a lavorare per lo Space Telescope Institute, centro di controllo per il telescopio Hubble in orbita intorno alla Terra. Conti, un anno fa, ha ricevuto il premio Pirelli Award per la comunicazione di scienza e tecnologia. Ecco Conti, abbiamo ascoltato la sua storia e forse una cosa che colpisce è che un ricercatore che lavora in uno dei centri più prestigiosi per l'astronomia decide poi di sviluppare un software per tutti per esplorare lo spazio. Ecco, com'è che ha pensato di lanciare quest'idea? Beh, innanzitutto... Io, come ha detto la scheda, ho visto Google Earth nel 2005, che era uno dei primi prototipi, e sono diventato quasi ossessionato, diciamo così, con la facilità con la quale si può, diciamo così, spaziare sul globo terrestre. E una volta capita qual era la tecnologia che appunto che fa da driver, diciamo così, a Google Earth, mi sono chiesto perché non si può fare una cosa simile con altri tipi di immagini, perché in fondo Google Earth non è altro che un browser, diciamo così, di immagini. E ho scritto una richiesta di collaborazione a un amico che lavora a Google, che mi ha appunto messo in contatto con coloro che sono i programmatori, quelli che sono in carica di Google Earth a Google, e da lì appunto è venuto il resto è storia, diciamo così, nel senso. Ma tutto che... così semplice, cioè chiamato un amico che l'ha messo in contatto, cioè poi è vero che negli Stati Uniti e soprattutto in certe aree degli Stati Uniti le cose sono molto meno complesse, meno mitologiche di quanto avviene in Italia. Sì, è vero, no? La semplicità, nel senso ci sono voluti 2 anni di sviluppo, eccetera, però il contatto iniziale, come ha appena sottolineato lei, è una cosa estremamente normale qui dal punto di vista sia accademico che anche dell'industria. Quindi io ho avuto la fortuna di conoscere un amico che mi ha messo in contatto con gli sviluppatori proprio di Google e dopo aver rotto il ghiaccio, diciamo così, ci hanno invitato a fare un colloquio a Google per, diciamo così, eccitare, se vogliamo così, gli sviluppatori di Google a questo nuovo progetto. Ma che tipi sono gli sviluppatori di Google? Cioè, perché poi non sappiamo. Noi oggi abbiamo iniziato la puntata domandandoci anche se è buono o cattivo Google, no? In maniera un po' sempliciotta, volendo. Dal punto di vista, una delle cose che forse pochi sanno è che dal punto di vista delle immagini la Terra, diciamo così, è molto meno, molto più interessante per tantissime cose, tranne che per gli astronomi come me. Però la Terra ha anche uno svantaggio enorme, secondo me, perché i dati, alcuni dati terrestri non possono essere rilasciati da Google, per esempio, ad altissima risoluzione. Il cielo, e quindi Google Sky, è qualcosa che appartiene, diciamo così, all'umanità, e quindi non c'è nessun copyright, non c'è nessun diritto di copia, tra virgolette, per i dati astronomici, perché sono tutti, al 99%, sono completamente pubblici. Google quindi, è buono, quindi, in questo sì, caso? Sì, quindi da quel punto di vista Google ha fatto questo progetto da cui non ricava assolutamente nulla, come un buon cittadino, diciamo così. Ecco, per... Conti, su questa nota positiva, poi ci esprime meglio il suo pensiero subito dopo, perché adesso dobbiamo dare la linea alle borse, dove molto probabilmente, no, non ancora si parlerà di Google, non ancora, dopo. Nova Lab 24. Allora, bentornati, sono le 16.33, sono Luca Tremolada, innocente come un bambino, anzi innocenti come due bambini. Io e Luca Dello Jacopo ci stiamo chiedendo se Google è buona e cattiva, e lo abbiamo fatto con Massimo Marchioni, che è collegato con noi e che in un certo senso ha contribuito alla costruzione, alla realizzazione del motore di ricerca di Google, e con Alberto Conti, astrofisico, che anche lui ha contribuito a Google Sky. Due italiani, insomma, una bella. E poi lo chiediamo anche agli ascoltatori che cosa ne pensano. E lo chiediamo anche agli ascoltatori. Ma io vorrei tornare con Alberto Conti, che giustamente sottolinea il fatto che il cielo è di tutti, no? Sì, il cielo appartiene all'umanità. In questo senso è stato, cioè, l'idea, tu hai parlato prima che eri ansioso, era una specie di, per te era importante, insomma, realizzare questo cielo virtuale, questo mi diceva Dello Jacopo, io non ci sono ancora non ho ancora navigato dentro Google Sky, che però è un'esperienza. È un'esperienza, infatti, cioè riesci e ti senti un po' come Star Trek. Perché questo, cioè perché l'idea di dare le mappe a Google e di creare quindi un servizio che ci rende un po' tutti astronauti in un certo senso? Sì, perché in realtà nella mia proposta di Google avevo diciamo così due fasi. La prima fase era quella di costruire in realtà un browser, lo chiamo io, un browser per il nostro universo. Invece di andare con il proprio browser da sito a sito, uno deve poter andare con la stessa facilità da una galassia all'altra, da una stella all'altra, e senza usare un manuale, con il mouse. E questa è una cosa che prima di Google Sky non si poteva fare, nel senso che l'esplorazione prima di Google Sky era una cosa abbastanza statica. Quindi non era neanche molto intuitiva, e la cosa che è cambiata secondo me è che con questi algoritmi portati da Google, ma anche da Microsoft in realtà, un utente si immerge, diciamo così, nel cielo, nella bellezza del nostro universo. Ecco, secondo me Conti però è anche un po' modesto in questa cosa, perché quello che hanno fatto loro, anche se volendolo un po' semplificare, è stato quello di unire delle immagini che hanno scattato nell'universo e di fare una sorta quindi di Cappella Sistina dell'universo, e quindi tu puoi vedere i pianeti, puoi avvicinarti ai pianeti, puoi avvicinarti alle stelle, alle costellazioni, è qualcosa, ecco, che ti fa entrare letteralmente nello spazio come se stessi su un'astronave. Sì, è la cosa. E la cosa secondo me è che è estremamente diversa da come gli utenti guardavano le immagini dell'universo prima, è che adesso uno può vedere per esempio che cosa ha visto Hubble, il telescopio Hubble, che sono le immagini, diciamo, di altissima risoluzione del cielo, però non solo, può vedere anche gli altri satelliti della NASA, gli satelliti infrarossi, i satelliti a raggi X, i satelliti... E prima erano tutte separate e adesso invece sono tutte insieme in un unico collage, e quindi si può navigare in questo collage. Si può navigare in questo collage, e la cosa che anche era ed è ancora nella fase 1 di questo mio progetto era che bisogna anche aiutare tutti coloro che sia in Italia che all'estero tentano di fare divulgazione scientifica in campo astronomico, contrapposizione purtroppo con alcune delle pseudoscienze che escono così ogni tanto allo scoperto. Se sono specifica, hai lanciato un sasso nello stagno, quali sono queste pseudoscienze? Non lo so, io sono in contatto per esempio con moltissime persone persone e ho guardato anche personalmente, per esempio, programmi come Voyager su, sono queste cose che danno un'immagine completamente distorta del processo scientifico, sì, di come un po' da fumetto, la ricerca scientifica e non documentate. Quindi avere a disposizione di tutti, non solo di coloro che si dicono e lavorano nella scienza, si chiamano scienziati, ma a disposizione della comunità in generale mondiale, uno strumento come Google Sky, che fa vedere il cielo com'è, non è stato toccato da nessuno, visualizzato, se vogliamo così, da Hubble e da altri telescopi, è qualcosa che democraticizza, diciamo così, la scienza. Sì, anche se poi a me i fumetti poi piace vedere anche un po' la devo dire che io sono uno che si appassiona, ma lasciamo perdere, una cosa che volevo capire, che in un certo punto di vista voi avete voi come astrofisici che avete l'occhio incollato a un grande cannocchiale, cioè da un certo punto di vista avete rinunciato a un vostro privilegio, cioè in questo senso è democratico. Però la cosa secondo me è questa, come dicevo prima, la prima fase è questa, quella di fare in modo che ci si possa, diciamo così, avvicinare e capire in qualche modo com'è il nostro universo, un universo vicino, un universo lontano, le galassie, le stelle, eccetera, in modo intuitivo, che questo è il grande contributo di aziende come Google e Microsoft. Però l'altra cosa è questa, che se questo strumento che è Google Sky diventa così semplice da usare, si potrebbe anche estenderlo, e questa era la fase 2 nella mia idea iniziale del 2005, di poterlo estendere per coloro che fanno scienza. Quindi possiamo usare Google Sky per fare scienza? La domanda è ancora purtroppo senza risposta, nel senso che ci stiamo ancora lavorando, però l'idea è quella di dire: possiamo rimuovere le difficoltà che gli astronomi che incontrano nel mettere insieme tutte queste immagini e utilizzare Google, utilizzare Microsoft per il primo approccio, diciamo così. Ecco, noi abbiamo in collegamento anche Marco Pifferi, fondatore di Twickersoft. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora, anche a lei chiederemo se Google è buona o cattiva, ma non prima di sentire la sua scheda. Secondo il quotidiano inglese Times, il secondo posto sul podio delle migliori applicazioni per iPhone spetta ad Around Me. Permette di trovare luoghi di interesse nelle vicinanze senza dover digitare i testi per cercarne i nomi. A progettarla è stato il piemontese Marco Pifferi. La sua azienda, Twickersoft, è specializzata nello sviluppo di software per il mondo Apple, dal Mac all'iPhone. Ma la strada per Pifferi non è stata facile. Alcuni mesi fa ha ricevuto da Google una lettera che gli annunciava una causa in tribunale. L'applicazione Around Me, infatti, era a pagamento, ma utilizzava le mappe gratuite di Google. Alla fine, Pifferi ha deciso di rendere gratuita l'applicazione, guadagnando con la pubblicità online. Ecco, allora, insomma, sicuramente gli utenti Apple conoscono, anzi gli utenti dell'iPhone conoscono Around Me, è un'applicazione incredibile anche perché è stata creata da un italiano dove, insomma, dovunque... Un po' una bussola, in effetti. È una bussola, dovunque mi trovo mi dice vicino quanti bar ho, dove sono gli ospedali, dove a che distanza posso trovare un taxi, e noi abbiamo qui l'inventore di Around Me. Allora... Google, insomma, la sua vicenda l'ha vista anche contrapposta a Google. Che idea si è fatto lei? Ma in realtà si trattava, diciamo, di dettagli relativi alla licenza dei loro dati. Google, dal mio punto di vista, è stato estremamente collaborativo perché loro mi hanno aiutato veramente molto a migliorare l'applicazione, a renderla quella che è adesso, nel senso che ci sono state, diciamo, delle migliorie tecniche dal loro punto di vista che hanno aiutato a migliorare l'applicazione per renderla più veloce, più efficiente, con dati migliori, eccetera. Quindi in generale funziona comunque questa collaborazione, ecco, con funziona Google. Google è buono con gli sviluppatori? Funziona assolutamente. Il rapporto, diciamo, di collaborazione con Google è ottimo, nel senso che loro sono molto aperti a qualsiasi possibilità di sviluppo, eccetera, quindi da quel punto di vista lì funziona molto bene. Inoltre, l'altro grosso vantaggio di Google è il fatto che questi dati che servivano a me per questa applicazione, Google li ha con una copertura mondiale, quindi l'applicazione funziona veramente ovunque su tutta la terra. C'è un ascoltatore che ci ha scritto: Giovanni, Google è ottimo ma è sopravvalutato e maniacale. Diverte. Il fatto di essere maniacale è una cosa che teorizza, però è vero che utilizzando i database, utilizzando un'applicazione come le mappe, insomma, si possono inventare cose. Sì, diciamo che il punto, le idee un po' legate ad Around Me sono quelle di unire tutta una serie di cose che sono, prima di tutto il fatto di avere la possibilità di avere un dispositivo con una connessione di internet, cosa che tecnicamente era già possibile prima dell'iPhone, ma in pratica non era così facile avere, perché quasi nessuno vendeva telefoni con una connessione internet flat come viene fatto per l'iPhone, quindi gli sviluppatori possono pensare che qualsiasi dispositivo ha sempre una connessione internet, cosa che non era vero in precedenza. Quindi questo, diciamo, è il primo punto. Il secondo punto è il fatto di avere il GPS, quindi di capire dove ci si trova. Unendo queste due cose più la terza, che è internet, quindi a me è venuto in mente di fare un'applicazione che cerca quello che c'è su internet attorno alla posizione dove ci si trova. Ecco, funziona sempre però questa possibilità di cercare, ecco, dei luoghi, oppure ci sono dei luoghi dove è più difficile trovare poi le informazioni sulle cose circostanti? Allora, il database è quello di Google e diciamo che funziona quasi ovunque. È chiaro che ci sono delle zone dove la copertura è meno buona, però io direi che per la maggior parte dei paesi non ci sono assolutamente problemi, la copertura è decisamente buona. Abbiamo un minuto, il tuo prossimo progetto, visto che insomma tutti hanno parlato di te, di lei, quando è uscito Around Me, perché oggettivamente, a parte il fatto che è un italiano e noi siamo solo che orgogliosi, però è stata la prima applicazione veramente particolare che sfrutta appieno le potenzialità dell'iPhone. Insomma, cosa c'è all'orizzonte? Ma c'è già un'altra applicazione che è disponibile da pochi giorni sullo store, che si chiama Search It, che praticamente cerca su internet, di nuovo su Google anche questa, come cerca normalmente un browser. A questo punto però sfrutta al massimo l'interfaccia utente dell'iPhone, quindi aiuta al massimo a cercare in condizioni di mobilità dove ci si trova normalmente con l'iPhone, quindi con una tastiera molto piccola, con la possibilità di dare dei suggerimenti in automatico. E quindi questa noi la vediamo un po' come completamento dal punto di vista della ricerca, perché mentre Around Me cerca delle informazioni che sono geolocalizzate, Search It cerca delle informazioni che sono sul web, normali informazioni sul web, migliorando, diciamo, l'esperienza della ricerca con un'interfaccia molto specializzata per l'iPhone. Un Google per iPhone, per semplificare. Si tratta di un Google per iPhone, in realtà i dati sono molto simili a quelli sono gli stessi che si trovano facendo una ricerca con il browser dell'iPhone, con la differenza che l'interfaccia è molto molto specializzata, quindi dà suggerimenti mentre si scrive, ricorda le ultime ricerche fatte, tiene Perfetto. Conto del fatto di come si orienta il telefono. Grazie Marco Pifferi, è finito il nostro tempo, grazie Alberto Conti, grazie anche a Massimo Marchiolini. Nova Lab 24. Bentornati, sempre Luca Tremolada. Allora, prima notizia rapidissima: su Twitter noi abbiamo un account twitter.com/NovaLab24. Ecco, noi pubblicheremo appunto l'indirizzo per accedere alla Cappella Sistina dell'Universo, come l'ha definita Luca Dello Iaco, e anche a ricerche, anche perché no, al software di Around Me. Insomma, diamo tutte le indicazioni di quello che diciamo durante la puntata, perché nulla deve essere perso, insomma, vogliamo. E poi vi diamo un po' una guida turistica per affrontare un po' la navigazione in rete, per capire un attimo quali sono poi quelle cose che stanno cambiando il modo stesso poi di affrontare internet e di entrare nella rete. Perché facciamo tutto questo? Ce lo siamo domandati anche io, Luca, e Luca Dello Iacopo. Il punto è che, insomma, la nostra idea è che quando si parla di internet, di fatto si ascolta la radio e magari qualcuno ha anche le mani sulla tastiera. Allora, perché no? Per provare un po' di unire cuffie e tastiere e dare degli strumenti che siano friendly, si dice così? che siano friendly e che poi in un solo, diciamo, colpo di mouse poi vi permettono di entrare in questi spazi che noi raccontiamo, perché una cosa è raccontare Google Sky appunto per radio, dove si possono immaginare, ecco, le costellazioni, un'altra invece è poi avere la possibilità, esatto, di entrarci, quindi ecco, di... perché abbiamo su Facebook una pagina. Sì, una pagina dove poi potete suggerirci anche i vostri commenti, le vostre opinioni, e la pagina è appunto su Facebook e la trovate scrivendo Novalab 24. Ed ecco perché anche la posta, che è novalab24@radio24.it, rispondiamo celermente. Di solito rispondo io, poi ogni tanto magari facciamo rispondere anche Luca Dello Jacopo, che così almeno si diverte anche lui. Noi stiamo chiudendo, domani l'auto elettrica punta tona sulle nuove auto e sull'automobile. A domani.